Allora, come si trova Tione? Bene. E cosa pensa dei giovani? Ce ne sono tanti e vedo tanti che vanno a scuola. E tante fiorelline che buono. E secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? E tanti. Non mi sono mai posta questo problema. Sono stata giovane anch'io, ma degli adulti non... Adesso o la smetti o andiamo a casa, le figurine le butto via. Quando avrete figli farete anche voi così. Stai bravo, dai. Ripetimi la domanda. Ma... Allora, secondo lei i giovani cosa pensano degli adulti? Io penso che a volte dovreste mettervi nei nostri panni, però quando sarete grandi forse capirete, perché tutti siamo stati giovani. Io quando ero piccola, cioè, un po' ero menefreghista nel confronto dei grandi, poi crescendo si matura e si capiscono tante cose. Penso che tutti affrontino un domani questo problema. Non so se mi spiego. Sì. Ecco, dai. No.